Il punto di Stefano Folli. La linea anti-europea di Berlusconi è il fatto centrale di questa campagna elettorale all'inizio. È un fatto drammatico perché indica l'estrema determinazione dell'uomo, ma anche la sua perdita di lucidità. Di fatto oggi Berlusconi è ai margini del Partito Popolare Europeo, che un tempo egli considerava il suo fiore all'occhiello. Anche le gerarchie ecclesiastiche lo hanno abbandonato dopo essere state un pilastro dei suoi governi per lunghi anni. Tutto questo determina due conseguenze. Da un lato una situazione di forte tensione che accompagnerà la campagna elettorale, di cui Berlusconi è sì il protagonista, ma in una chiave parecchio destabilizzante. Sarà in grado di reggerla? Secondo, cresce lo spazio di Mario Monti. Che il Premier decida di partecipare in modo attivo alle elezioni oppure no, egli è già diventato il punto di riferimento di una vasta area moderata. È l'area che è quasi sempre stata maggioritaria nel paese e che oggi, disorientata e incerta, guarda a lui con una certa speranza. Anche Bersani guarda quest'area, ma l'alleanza con Vendola gli impedisce di rappresentarla pienamente.